E questa è per tutte le pischelle di Roma, per tutte le pischelle del centro, per tutte le pischelle del sud, per tutte le pischelle del nord, per tutte le pischelle del mondo, ma soprattutto per le pischelle di Velletri. Davide Borri, we from Velletri, Olmedo. Non aspettare che io passi sul BMW. Ciao, dimmi come stai, raccontami che segno sei. Io sto tranquillo, senza pensare a che c'ho. Ma poi ti vedo, baby disco laccio, laccio, non ce la faccio. Baby disco laccio, laccio, quando ti vedo. Baby disco laccio, laccio, quando ti guardo. Baby disco laccio, laccio. C'è già tutto in noi, non serve da uscire. Io vengo da Velletri, da Vidino è così. Sì, sì, il tuo perizoma blu mi chiede baci, ci, ci. Me lasci tutti e poi s'andiamo a dormire. Ma poi ti vedo e baby disco laccio, laccio, non ce la faccio. Baby disco laccio, laccio, quando ti vedo. Baby disco laccio, laccio, quando ti guardo. Baby disco laccio, laccio, forse già lo sai. Me la danno, me la dai, non sembra strano. Due corpi che si attraggono, se non lo sai, mo lo sai, che Rio sta venire. Sto sempre con lo strafone che me porto per uscire. E quello che famo poi non se può dire. Me lasci tutti lì e poi s'andiamo a dormire. Baby disco laccio, laccio, non ce la faccio. Baby disco laccio, laccio, quando ti vedo. Baby disco laccio, laccio, quando ti guardo. Baby disco laccio, laccio. Ti do quello che c'ho, sono così, ci beviamo un drink, viene bene, va liscio. Ti do quello che so adesso, vieni con me, dai, molto meglio che alla Y, fuori dallo stress. Dimmi solo sì, oh yes, le iniziali sono DB. La tua pelle sa, la tua mano va, quindi qui non finisce, stai da me oggi. Gioco te perché sei come sei, un gran paio di chiappe che non rifiuterei. Te lo dico così perché sono così, tu pure sei così, ma lo so che nulla vuoi di. E io non sono francese, te lo dico in un modo poco borghese, perché sono di Velletri, la gente lo sa, e ti porto fuori città. Baby disco laccio, laccio, non ce la faccio. Baby disco laccio, laccio, quando ti vedo.